Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. L'Italia dovrebbe prendere esempio dalla camorra. Per battere la crisi economica, seppure in previsione di una riduzione dei margini di profitto, e per tenere testa all'azione repressiva dello Stato, tra gennaio e febbraio 2009 le famiglie criminali Bidognetti, Mallardo e Licciardi Contini decidono di accordarsi per creare un gruppo misto. Mentre dell'organizzazione, secondo l'indagine della Procura distrettuale antimafia di Napoli, era Francesco Diana, diventato poi collaboratore di giustizia, al quale l'idea geniale salta in testa successivamente alla disarticolazione dei bidognettiani che facevano capo Giuseppe Setola, per consentire proprio al gruppo Bidognetti di continuare a esercitare sul litorale Domizio e sull'intera area della provincia di Napoli e Caserta le attività tipiche di un'organizzazione di tipo mafioso. Da settembre 2009 Francesco Diana però comincia a parlare e riferisce che ogni famiglia doveva mettere a disposizione del gruppo alcuni propri affiliati. Secondo quanto dichiarato da Diana, il ricavato delle attività illecite commesse da questo gruppo misto era così suddiviso. In primo luogo si provvedeva agli stipendi per tutti i partecipanti al gruppo, poi si provvedeva a pagare le famiglie dei detenuti del gruppo Bidognetti. Quest'ultima circostanza era un'immediata conseguenza del fatto che la maggior parte degli episodi estorsivi riguardavano attività commerciali presenti sul territorio storicamente controllato proprio dalla famiglia Bidognetti. La parte residua di ricavi, attenzione, una volta quindi sottratta la somma necessaria al pagamento degli stipendi, era divisa in parti uguali tra i rappresentanti delle rispettive famiglie criminali. La previsione degli introiti del gruppo, e qui sentite bene, considerati gli esercizi commerciali da estorcere, doveva girarsi, e avevano fatto una previsione per un solo mese, nell'agosto 2009 intorno ai 450.000 euro. Mica male, no? Questo sì che è battere la crisi, e anche il caldo. Buona vita e a domani!